Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Come sapete, è stata riconfermata anche per quest'anno 2011 la detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Ma a partire dallo scorso gennaio sono cambiate alcune condizioni e inoltre sono molti i casi di opere di riqualificazione iniziate l'anno scorso e che continuano quest'anno. Come dobbiamo comportarci in questi casi? Beh, ce lo facciamo spiegare da Amalia Martelli dell'Unità Tecnica di Efficienza Energetica dell'Enea. Buonasera Martelli. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, brevissimo ripasso, come funziona il 55% nel 2011? Che tipo di interventi intanto sono incentivabili? Sì. Beh, anche per il 2011 gli interventi agevolati sono appunto gli interventi che riguardano sia l'immobile nella sua complessità che quindi interventi più sostanziosi, potremmo dire, che interventi che riguardano soltanto alcune parti di edifici, quindi la sostituzione di infissi, ma anche la sostituzione per esempio del solo vetro, gli interventi di coibentazione delle pareti verticali e orizzontali, l'installazione di pannelli solari e la sostituzione di impianti termici. D'accordo. Restano uguali anche i requisiti tecnici che questi interventi devono assicurare e anche i limiti massimi di detrazione. Ecco, quindi diciamo che dal punto di vista delle tecnologie non sono state inserite cose nuove. No, non sono state inserite tecnologie nuove, era stato fatto nel 2008, erano state incentivate in modo particolare le pompe di calore, quindi allo stato attuale gli interventi restano quelli incentivati appunto dal 2008 in poi. Quello che subisce modifica è il periodo della detrazione. Certo. Che per il 2011 diviene di 10 anni, a differenza appunto di un periodo a scelta dell'utente da 3 a 10 anni nel 2007 e poi 5 anni l'anno scorso, insomma. Ecco, tra l'altro questo allungamento è stato un po' contestato perché recuperare il 55% di un piccolo intervento in 10 anni è quasi come non avere niente, ma comunque meno male. Però che bisogna anche considerare che il nuovo periodo più lungo risponde forse alle esigenze di quanti magari hanno un reddito non così elevato, certo, e quindi certo, magari negli anni scorsi sono stati quasi esclusi dalle detrazioni. Certo, certo. Infatti l'ideale era poter scegliere. Appunto. Poter scegliere. Ecco, sì. Abbiamo detto che ci sono la riqualificazione energetica e poi invece delle singole parti. Spesso sulle singole parti diciamo ci sono delle procedure semplificate, mettiamola così. La cosa più complicata è la riqualificazione energetica. Perché lì, come dire, non si può sapere a priori a che cosa si arriverà come risultato. Bisogna fare una certificazione energetica prima e una dopo. Ci spiega un po' come funziona? Sì, dal 2008 sono state introdotte, come ha detto lei, delle semplificazioni per la sostituzione di infissi in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari e anche per la sostituzione degli impianti termici, certo, dal 2009. Per gli interventi più complessi, appunto per le riqualificazioni globali, ma anche per i cappotti, è ancora necessario redigere l'attestato di qualificazione energetica e l'allegato E. Però è anche vero che si può sempre usufruire di un tecnico e rientrare del 55% di quanto speso anche per queste spese che possiamo appunto definirle tecniche. È una documentazione un pochino più complessa che richiede, abbiamo detto, un tecnico abilitato, quindi un ingegnere, un architetto, un geometra. Che soprattutto alla fine deve fare proprio la valutazione energetica dell'edificio e bisogna dimostrare che è migliorata rispetto all'inizio. Certo, l'intervento deve costituire un risparmio, d'altra parte il vantaggio che consegue l'utente è tanto perché rientra del 55% di quanto spende e quindi in qualche modo deve motivare, no? Ecco, la procedura però come funziona? Perché queste operazioni di riqualificazione non vanno, come dire, annunciate all'inizio, semplicemente si fanno. Però per chi si troverà a cavallo tra il 2010 e il 2011, come fa uno a spiegare quello che aveva fatto nel 2010 e quello che invece poi farà nel 2011 per poi avere diritto alle detrazioni per tutte le spese sostenute? Allora, il primo passo, tanto per farci un po' di pubblicità, è collegarsi al nostro sito all'indirizzo http://efficienzaenergetica.acs.enea.it, che è un sito che consigliamo perché è scritto in un linguaggio piuttosto semplice e che può essere consultato da tutti, da tutte e le lì possibili ci sono un sacco di domande e risposte. In particolare alla FAC 65 troviamo risposta proprio a questa domanda: cosa fare se i lavori sono per esempio iniziati nel 2010 e poi continuano nel 2011? Allora, dividiamo il problema in due parti, dal punto di vista degli aspetti fiscali e degli aspetti procedurali. Sì. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, le spese che sono state sostenute nel 2010 possono essere detratte a partire dalla denuncia dei redditi dell'estate 2011 in 5 anni. D'accordo. Quello che invece si è speso o si spenderà nel 2011 sarà detraibile in 10 anni a partire dalla denuncia dei redditi dell'estate 2012, vige D'accordo. Il criterio di cassa. Perfetto. Quindi aspetti fiscali messi da parte. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, se i lavori appunto non terminano nel 2010, occorre dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate, è una comunicazione telematica che avviene attraverso il sito dell'Agenzia, va fatta innanzitutto entro il 31 marzo 2011 e con questa comunicazione si devono specificare le spese che sono state sostenute nel 2010. Perfetto. Dopodiché l'altro aspetto è la documentazione che deve essere trasmessa ad Enea. E va trasmessa, come ha detto lei, al termine dei lavori, entro 90 giorni dal termine dei lavori e attraverso il sito 2011, se i lavori continuano anche nel 2011, sito che presumibilmente sarà pronto verso la metà di marzo. E questo è quanto, quindi lei le procedure... è un libro stampato. Grazie. Ho 4 Martelli. Anni di detrazione alle spalle. Ah, ecco, si vede. Grazie Martelli. Arrivederci. Beh, vale la pena di aggiungere, prima di concludere, che dal mille proroghe potrebbe arrivare una detrazione fiscale del 36% anche per i tetti verdi, quindi insomma quelle coperture con una sorta di prato che sostituisce il tetto. Domani restiamo sul tema ristrutturazioni, ma per occuparci e per tornare a parlare di edifici storici. Buona serata.